Non ti scordare di te. Vacci a vaccinarti, per favore. Vacci è imperativo presente del verbo star bene. Per prevenire influenza, polmoniti e altre malattie. Vacci a vaccinarti, per favore. Vacci a vaccinarti. Non ti scordare di te. Campagna di Happy Aging per la vaccinazione over 60. Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Sesta puntata. Poi io dissi: ma allora? Allora? Chiese mia madre. Sì, allora, dissi io. Che è successo col babbo allora? Mia madre parve di nuovo urtata. Perché parlarne? Borbottò. Per me è lo stesso, con lui o senza di lui. E se per lui è lo stesso senza di me, non me ne importa nulla. Dunque, è vero che se n'è andato con un'altra? Io dissi. E mia madre: andato. Un corno andato. Io l'ho mandato, era casa mia qui. E io: oh signora, ti era venuto a noia e l'hai mandato. E mia madre: bene, l'ho sopportato per molti anni e ora era troppo, non potevo sopportare di vederlo innamorato alla sua età. Come mai si era innamorato? Dissi io. E mia madre: ma è sempre stato così con le donne. Aveva sempre bisogno di altre donne per la casa e fare il galletto in mezzo alle donne. Sai che scriveva poesie. Le scriveva a loro. Questo non era nulla di male, dissi io. E mia madre: non era male? E loro che mi guardavano dall'alto in basso a sentirsi chiamare regine in quelle poesie, non era male? Le chiamava regine, dissi io. E mia madre: ma sì, e anche api regine, delle sporche mogli di cantonieri e maestre e mogli di capistazione, api regine. E io: ma come potevano sapere loro che si trattava di loro? E mia madre: bene, quando una lo vedeva gentile con lei e nelle feste brindare alla più bella guardando lei e poi leggere quelle poesie con le braccia aperte verso di lei, che le occorreva di più per saperlo? Io risi. Quelle feste, quelle riunioni. Era un gran pazzo, disse mia madre. Non poteva stare senza Baccano. Ogni 6-7 giorni doveva per forza combinare qualcosa, chiamare i ferrovieri di tutta la linea con le loro mogli e ragazze e fare il gallo in mezzo a loro. Vi erano periodi che si aveva riunione ogni sera o da noi o da altri, o ballo o gioco a carte o recita, e lui al centro della festa con gli occhi lucenti. Potei ricordare mio padre con gli occhi azzurri e lucenti al centro della mia infanzia e della Sicilia, nelle solitudini delle montagne, e ricordai anche mia madre, non infelice, in vero, facendo la padrona di casa e portando vino intorno e splendendo, ridendo, niente affatto infelice di un marito così gallo. «Era grande in questo», continuò mia madre, «mai si stancava a ballare, non mancava un giro». Finiva il disco e correva a cambiarlo e tornava e afferrava una dama e ballava e sapeva comandare la quadriglia con una battuta spiritosa ad ogni frase e sapeva suonare la fisarmonica e la zampogna anche. Era il più bravo suonatore di zampogna di tutte le montagne e aveva una gran voce che riempiva una vallata. Era un grand'uomo come un guerriero antico. E si vedeva che si sentiva un re sul suo cavallo. E quando la cavalcata spuntava sul ponte, con le lanterne e i sonagli, e lui che si sentiva un re alla testa, noi gridavamo: evviva! Evviva il papà! Gridavamo. Ma di chi parli? Chiesi io. Parlo del papà, di tuo nonno, disse mia madre. Di chi credevi che parlassi? E io parli del nonno. Era il nonno che suonava il grammofono e mia madre, no, questo no, questo era tuo padre. Suonava il grammofono e cambiava i dischi, correva e cambiava i dischi tutto il tempo e ballava tutto il tempo. Era un gran ballerino, un gran galante e quando voleva me per dama e mi faceva girare, io mi sentivo come se fosse ritornata bambina. Ti sentivi bambina col babbo, dissi io, e mia madre, ma no, dico col papà, tuo nonno, era così alto e grande e così fiero con la barba bionda e bianca, e io, allora era il nonno che ballava, e mia madre, anche tuo padre ballava. Col grammofono e tutte quelle donne che mi portava in casa, ballava fin troppo. Avrebbe voluto ballare ogni sera e quando io non avevo voluto andare a qualche riunione di una casa cantoniera troppo lontana, mi guardava come se gli avessi tolto un anno di vita. Ma noi si voleva sempre andare alle feste dove andava lui. Lui? Chi? Dissi io. Il babbo? O il nonno? E mia madre. Il nonno. Il nonno. Parlò e parlò mia madre un pezzo del nonno, o del babbo, o di altri che fosse, dell'uomo, insomma. E io mi trovai a pensare che doveva essere una specie del gran lombardo. Non ricordavo nulla del nonno. Ricordavo solo la sua mano che mi teneva, bambino di 3 anni o di 5, portandomi per le vie e le scalinate di quel punto suo della terra. Ma potevo pensarlo come una specie del gran lombardo. Dico il gran capelluto del treno con la piccola barba bianca che aveva parlato nel treno d'un suo cavallo e sue figlie femmine e di altri doveri. «Suppongo che fosse un gran lombardo», dissi. Avevamo finito di mangiare anche il popone e mia madre si era alzata e raccoglieva i piatti. «Che cos'è un gran lombardo?» disse. Io mi strinsi nelle spalle, non sapevo che rispondere, in vero, e dissi «È un uomo?» «Un uomo?» disse mia madre. E io «Un uomo alto, grande». Non era alto il nonno. E mia madre «Era alto». «Si chiama Gran Lombardo, un uomo che è alto?» E io, «No, veramente, non per la statura». E mia madre, «Perché allora pensi che fosse un Gran Lombardo?» E io, «Perché sì. Non era biondo e con gli occhi azzurri, il nonno?» E mia madre, «È questo un Gran Lombardo? Uno che è biondo e ha gli occhi azzurri? È facile essere un Gran Lombardo?» «Bene», dissi io. «Forse è facile, forse no». Mia madre si era piantata ferma dinanzi alla tavola e aveva incrociato le braccia sotto le sue antiche mammelle. Mi guardava con occhio un po' strabico chiusa nella coperta rossa. «È facile che uno sia biondo e abbia gli occhi azzurri», disse. «Questo sì», dissi io, «ma un gran lombardo può non essere biondo». Pensai a mio padre con gli occhi azzurri, non biondo. E come pensavo anche lui una specie di gran lombardo in Macbeth e in tutte le sue tragedie recitate su tavole di ferrovia per ferrovieri e cantonieri, dissi «Può anche essere solo con gli occhi azzurri». «E allora?» disse mia madre. E io pensavo a com'era in effetti il gran lombardo, l'uomo del treno che aveva parlato di altri doveri e mi parve, nella nostalgia di lui, che non avesse occhi azzurri, non fosse che un uomo con molti capelli. «Bene», dissi, «un gran lombardo è un gran capelluto. Aveva molti capelli il nonno». «Molti capelli?» disse mia madre. «No, non ne aveva molti. Aveva molta barba, bianca e bionda, ma i capelli gli mancavano in mezzo alla testa. Non era un gran lombardo». «Ma sì», dissi io, «era un gran lombardo lo stesso». E mia madre, Come poteva esserlo se dici che un gran lombardo è un gran capelluto? Lui non aveva molti capelli. E io? Che importano i capelli? Sono sicuro che il nonno era un gran lombardo. Doveva essere nato in un posto lombardo. In un posto lombardo, esclamò mia madre. Che cos'è un posto lombardo? E io? Un posto lombardo è un posto come Nicosia. Sai di Nicosia? E mia madre? Ne ho sentito parlare. E dove fanno il pane con le nocciole sopra. Ma mio padre non era di Nicosia. Ci sono molti altri posti lombardi, io dissi. C'è Sperlinga, c'è Troina. Tutti i posti del Valdemone sono posti lombardi. E mia madre? Ma lui non era del Valdemone. Non era un gran lombardo. E io? Anche fuori del Valdemone vi sono posti lombardi. Aidone non è nel Valdemone, eppure è un posto lombardo. E mia madre? È un posto lombardo, Aidone? Avevo un orcio di Aidone una volta, ma lui non era di Aidone. Di dov'era? Chiesi io. Suppongo che era della Valle Armerina, di queste parti. C'è un posto lombardo anche nella Valle Armerina. Era di Piazza, disse mia madre. Era nato a Piazza e poi venne qui. È un posto lombardo, Piazza Armerina? Un momento io rimasi zitto, pensai, e poi dissi, no, non credo che Piazza sia un posto lombardo. E mia madre trionfò. Vedi che non era un gran lombardo, disse. E invece sono sicuro che lo era, esclamai io. Non poteva non esserlo. E mia madre, ma se non era di un posto lombardo? E io, che importa il posto? Anche se era nato in Cina, sono sicuro che era un gran lombardo. Allora mia madre rise. Sei testardo, disse. Perché vuoi proprio che fosse un gran lombardo? E anch'io risi un secondo. Poi dissi, come tu ne parli, sembra che dovesse esserlo. Sembra che dovesse pensare ad altri doveri. Questo io dissi molto sul serio, con nostalgia del gran lombardo conosciuto in treno e di uomini e uomini che fossero simili a lui, di mio padre Macbeth e del nonno e dell'uomo in un'immagine come lui. Sembra che dovesse pensare ad altri doveri, dissi. Altri doveri, disse mia madre. E io, non diceva che questi nostri doveri di ora sono troppo vecchi, che sono marci, morti, e che non vi è soddisfazione ad adempierli? Mia madre era sconcertata. Non so. Non credo, disse. E io, non diceva che ci vogliono altri doveri, dei nuovi doveri, non più i soliti. Non diceva così. Non so, disse mia madre. Non so. Non gliel'ho sentito dire. Ora a me pareva che di nuovo mi fosse indifferente essere là, da mia madre, in viaggio, e non essere piuttosto nella mia vita di tutti i giorni. Eppure, sempre con nostalgia del gran lombardo, chiesi, era soddisfatto di sé e del mondo, il nonno? Mia madre mi guardò un pezzo, sconcertata, e fu per dire qualcosa, ma mutò pensiero e disse, perché no? Poi mi guardò di nuovo, e io non le rispondevo, e mi guardò e di nuovo mutò pensiero, disse, no, in fondo non lo era. Ah, non lo era? Dissi io, e mia madre, no, del mondo non lo era. E di sé lo era, dissi io. Del mondo non era soddisfatto? E di sé lo era? E mia madre, sì, credo che di sé lo era. Non pensava ad altri doveri, dissi io. Lo era. E mia madre, perché non avrebbe dovuto esserlo? Si sentiva un re sul suo cavallo, nella cavalcata, e avevano i tre belle figlie femmine. Perché non avrebbe dovuto esserlo? E io, bene, forse tu non lo sai se lo era o no. Poi mia madre si mise a rigovernare i piatti, Non c'era acqua corrente e li lavava in un catino di terracotta pieno di acqua calda e lavandoli attaccò subito a fischiettare. «Mi aiuti?» disse, quando tirò fuori dall'acqua calda il primo piatto. Io mi alzai e mi disposi ad aiutarla e lei strofinò con un poco di cenere il piatto, lo passò a me e mi indicò un secchio di acqua fredda. Volle che sciacquassi il piatto in quel secchio, poi lo asciugassi. Si andò avanti a questo modo con gli altri piatti e posate e lei fischiettava, cantava. Io la guardavo. Cantava, dico, ma sottovoce. Vecchi motivi senza parole, metà mugolio, metà fischiettio e un gorgheggio a tratti. Ed era una buffa donna coi suoi 50 anni o poco meno. E la sua faccia non vecchia ancora, asciugata dagli anni, ma non vecchia, giovane anzi. E coi capelli castani quasi biondi, con la coperta rossa sulle spalle, con gli scarponi del babbo ai piedi. Vidi le sue mani, ed erano grandi, consumate, nodose, completamente diverse dalla faccia, perché potevano anche essere di uomo che abbatte alberi o lavora la terra, mentre la sua faccia era di odalisca, in qualche modo. «Queste nostre donne», pensai, e non volevo dire le siciliane, ma le donne in genere, senza dolcezza per la notte sulle mani, e forse alle volte infelici di questo, gelose e selvagge per questo, non avere di odalische le mani, come pur avevano il cuore e la faccia, e non poter tenere i loro uomini legati a loro con le mani. Pensai, mio padre e me, tutti gli uomini, col nostro bisogno di mani morbide su di noi, e credetti capire qualcosa della nostra inquietudine con le donne, di come eravamo pronti a disertare da loro, le donne nostre con le mani rudi e spicce, quasi maschili, dure nella notte, e di come si cadeva in schiavitù a chiamar regina una donna che fosse donna o odalisca quando toccava. Era così, pensai, che si amava l'idea della gente di lusso e di tutta la società civile e militare, le gerarchie, le dinastie, i principi e re anche nelle favole, per l'idea della donna che allevasse la tenerezza alle mani. Bastava sapere della esistenza loro, poter sapere che c'erano queste donne e vederle, al di là per noi dai cavalli e le insegne e gli eunuchi loro. Ed era così, pensai, che si amava tutta la festa e il gran serraglio, gli uomini loro pure, e le trombe, le insegne, e che si stava al gioco, e si distoglieva lo sguardo dalle donne e ragazze nostre pari, cercando altre, io, mio padre, ogni uomo, e cercando altro in altre, senza mai supporre che si cercava un contatto di mani tenere su di noi. Questo pensai, e pensai, vigliacchi noi, guardando le mani di mia madre, informi, e pensando ai suoi piedi anch'essi informi nelle vecchie scarpe da uomo, e che bisognava ignorare come parti di un'altra natura in lei, innominabili. Ma mia madre cantava, ed era uccello cantando, mugolì, fischietti e un gorgheggio a tratti, e le sue mani e i suoi piedi non importavano, e nemmeno i suoi anni importavano, e importava solo che cantasse, fosse uccello, la madre uccello dell'aria e nelle sue uova della luce, che dà la luce. «Bene», dissi, «immagino che passi il tempo così quando sei sola». «Così», disse mia madre. «Sì», io dissi, «cantando». Mia madre alzò le spalle e mostrò di forse non sapere che stava cantando, e io aggiunsi, «Non ti importa di essere sola?» Allora lei mi guardò col suo occhio strabico dei momenti di perplessità. Poi corrugò la fronte, disse, «Se pensi che debba sentire la mancanza della compagnia di tuo padre, t'inganni. Che pensi a fare queste cose?» «Perché?» io dissi. «Non ti teneva buona compagnia. Immagino che ti aiutava a rigovernare anche». E mia madre, «Questo non significa che io debba sentirmi sola senza di lui». E io, «Ma era un uomo gentile». E mia madre, «Oh, non occorre averlo in casa un uomo gentile. È stata la mia disgrazia che fosse un uomo gentile». E io, «Vorrei che ti spiegassi meglio». E mia madre, «Vedi, Il nonno non era gentile. Non chiamava regine le donne, non scriveva poesie per loro. Suppongo che non gli piacevano, dissi io. E mia madre, non gli piacevano. Gli piacevano 10 volte più che a tuo padre. Ma non aveva bisogno di chiamarle regine. Quando una gli piaceva, se la portava nel vallone. Ve ne sono molte qui in paese che si ricordano ancora di lui. E molte anche a piazza. E tutti i lamenti del babbo, io dissi. Ho idea che saresti stata peggio col tuo carattere ad essere la moglie del nonno, per esempio. Peggio, esclamò mia madre. Come peggio? Bene, dissi io. Il nonno se le portava nel vallone e il babbo scriveva loro poesie. Ho idea che quelle scappate nel vallone ti sarebbero riuscite più dure delle poesie. E mia madre, niente affatto. Tutto il male erano le poesie con tuo padre. Sarei stata contenta che se le fosse portate solo nel vallone. E io, cosa? Se le portava nel vallone e poi scriveva loro poesie? E mia madre, naturalmente. E le chiamava regine, le trattava da regine. Era un uomo gentile. E se qualcuna aveva un nome gentile, come per esempio Manon, pareva diventato pazzo, una cosa ridicola per la sua età. Chi aveva nome Manon? Chiesi io e mia madre. Questa è stata la cavallerizza del circo. Per lei l'ho mandato via, perché aveva nome Manon. Ma le trattava sempre da regine, era un uomo gentile. Ci fu una pausa senza che io rispondessi, e mia madre parve aspettare, sicché io dissi, era un uomo gentile. E mia madre, questo era il male. Sarei stata contenta che se le fosse portate solo nel vallone. Invece lui arrivava e mi diceva, mia cara, se tu fossi una fanciulla, potresti avere nome Manon. E questo era male, dissi io. E mia madre, il male era che le trattava da regine, non da sporche vacche, e che dava loro a intendere chissà cosa. Questo era il male. Io non potevo guardarle dall'alto in basso. Ah, dissi io, non potevi guardarle dall'alto in basso. E intanto pensavo, buffa d'una donna. E mia madre disse, lui dava loro a intendere di essere chissà cosa e loro mi guardavano come fossero chissà cosa. Mi venivano in casa, mogli di ferrovieri, contadine, ed erano sfacciate, tranquille, non abbassavano gli occhi, mi guardavano come fossero chissà cosa. E io non potevo guardarle dall'alto in basso. Buffa d'una donna, pensavo io. E mia madre disse, questo era il male. Lui dava loro a intendere di essere molto più di me. E loro mi guardavano come fossero molto più di me, perché lui le chiamava regine. Non faceva pensare loro che erano delle sporche vacche. E io non potevo guardarle dall'alto in basso. Così parlava e io pensavo, buffa d'una donna, buffa d'una donna. E dentro di me quasi ridevo. Sapevo come noi uomini si era. Vigliacchi forse, mio padre, io stesso. Ma giusti dopo tutto nell'entusiasmo nostro con loro e nel dar loro a intendere di essere chissà cosa. E dentro di me quasi ridevo. Tommaso Ragno ha letto Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini.